donna sia più attenta all'auto non ci sono dubbi, è sicuramente molto più prudente. Insegna all'università, E bellezza sogna. Senti, se lo dice lui, incido vero. Sulla pietra. Non ne parliamo. Sono l'eccezione. Senta, io ma dico, professore, lei da che parte gioca? Da che parte sta? Solo e sempre da parte delle donne. E allora? E per la vita. Solo il 14% delle donne si preoccupa di misurare la pressione delle gomme. La pressione delle gomme. Dai, su. Paura, guarda la dolcezza, cosa fa? Controllate la trazione della vettura. Se la vettura in cui vi muovete ha trazione, è semplice di rimedio. Adesso perché già io la trazione io della vettura come si fa? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglia di fumare un'altra sigaretta. Oggi, come anticipato, noi giochiamo un po' d'anticipo e parliamo di un appuntamento importante che ci invita, se non l'abbiamo ancora fatto, a fare i conti con un fattore di rischio che minaccia seriamente la nostra salute, un fattore di rischio evitabile e che dovremmo impegnarci a evitare, dato che è responsabile tra l'80 e il 90% dei tumori al polmone. Parliamo naturalmente del fumo di sigaretta. Come saprete, ogni anno il 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Il tema scelto quest'anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e stop al mercato illecito dei prodotti del tabacco. Gli obiettivi della campagna sono legati naturalmente a sensibilizzare sui danni alla salute causati dal traffico illecito dei prodotti del tabacco, in particolare a quella parte della popolazione più giovane e a basso reddito per i quali il costo più basso della merce di contrabbando li rende maggiormente accessibili. Sono in programma tante iniziative che vi segnaleremo sulla nostra pagina, ma quest'anno la Giornata Mondiale Senza Tabacco è anche un'occasione per fare un bilancio a 10 anni dalla legge Sirchia. Così è conosciuta la normativa a tutela della salute pubblica, entrata, come vi ricorderete, in vigore il 10 gennaio 2005 e che estendeva il divieto di fumo a tutti i locali. Un decreto per certi versi rivoluzionario che fece grande scalpore, scatenò polemiche molto accese, ma che è stato ben presto imitato, per fortuna, da altri paesi europei. Ne parleremo tra poco con il professor Girolamo Sirchia, ex ministro della Salute, e con il dottor Roberto Boffi, che è qua in studio con noi, responsabile della pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Nel frattempo, ditemi se la legge Sirchia vi ha liberato dal fumo, vi ha aiutato a smettere, se ci avete provato e in questi anni quante volte avete cercato di farlo e con quali risultati. Se siete diventati svapatori, chiamateci per raccontarci se per voi è un'alternativa o pensate sia una fase di passaggio per arrivare poi a smettere di fumare e anche di svapare definitivamente. 800 24 00 24. Avete figli giovani che fumano? Che cosa gli dite voi per aiutarli a smettere? Proviamoci insieme. Esatto, e dopo esservi segnati sul calendario il 31 maggio, la Giornata Mondiale Senza Tabacco, potete segnarvi, già che ci siete, anche il 1 giugno, data importante per motivi diversi ma che comunque interessano un po' tutti noi. Noi oggi torneremo a parlare di auto, di assicurazioni, in particolare a partire dalle 11.45, perché proprio a partire dal 1 giugno inizierà a dematerializzarsi l'ADR, che è l'attestato di rischio, il documento che indica la classe universale di appartenenza dell'assicurazione curato e il numero di incidenti fatti negli ultimi anni. Segnatevi anche il 18 ottobre, perché da quella giornata, quindi in autunno, sparirà anche il tagliando che siamo abituati ad apporre sul parabrezza. Possono sembrare semplici cambiamenti tecnici, ma si tratta invece di novità importanti, il cui obiettivo è sempre quello di combattere le frodi, sanare la situazione assicurativa dell'auto in Italia. Tanti viaggiano senza essere assicurati e ad andarci di mezzo alla fine dei conti è sempre la nostra sicurezza. 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi, vi spiegheremo per bene cosa deve fare da queste due date l'automobilista. Peccato che per Aiden sia un problema, ma bisogna accettare le persone come sono. Che abbia voluto scaricarmi per una sciocchezza come il fumo. Guarda che fumare non è una sciocchezza, è un vizio sporco e disgustoso e ti sta ammazzando. Grazie, mento livido. Davvero, Carrie, dà fastidio a tutte, lo sopportiamo perché ti vogliamo bene. Adesso hai un motivo per smettere, fa. Non mi piace che vi mettiate contro di me. Chi si mette contro di te? Fumare fa parte parte di come sono. Se smetterò, sarà perché l'avrò deciso io e non perché un tipo carino mi ha detto di farlo. Eccoci qua, noi parlando di fumo vorremmo provare a smettere, convincervi a farlo e lo vogliamo fare insieme a quello che può essere a tutti gli effetti considerato il papà della legge antifumo. Buongiorno al professor Girolamo Siri, che è ex ministro della salute. Buongiorno. Professore, non c'è più, è caduto il professor Sirchi. No, io la sento. Buongiorno professore, buongiorno. Io so che, grazie per essere con noi, so che, prego, so che hai minuti un po' contati. Le rube... un treno, sì. Sì. Scusa. No, assolutamente, ma volevo salutare anche qua in studio con noi il dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Professor Sirchi, sono passati 10 anni dalla promozione della legge che porta il suo nome e che vietò il fumo nei locali pubblici. All'inizio, ce lo ricordiamo bene, accese tante polemiche, fece scalpore, incontrando anche tanti detrattori, ma a distanza di un decennio ormai accertato come sia stata la legge, forse più conosciuta e apprezzata dai cittadini italiani, come ha ricordato il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Infatti, secondo le ultime statistiche, ben il 95% dei nostri connazionali la ritiene utile e il 90% la giudica ampiamente osservata. Professor Sirchia, si sarebbe mai immaginato che la sua legge diventasse la più amata degli italiani? Beh, oggettivamente no. Anzi, mi sembrava all'inizio che ci fosse una preponderante forza contraria che metteva fortemente a rischio, oltre alla mia posizione nel governo, ma soprattutto mettesse a rischio il successo dell'iniziativa. Ecco. E poi invece la consapevolezza della popolazione si è dimostrata molto più alta di quanto si potesse immaginare. La gente ha capito che sono provvedimenti di salute pubblica che servono a tutti, anche ai fumatori. È vero. Professore, la sua legge è stato un passaggio chiave, no? per la tutela della salute in Italia, come lei anticipava, perché i dati ci sono. Secondo l'Istat la prevalenza dei fumatori è diminuita del 18% e i ricoveri per infarto sono calati e anche la vendita dei prodotti del tabacco ha risentito della sua legge, registrando una diminuzione. Quindi direi che i dati ci dicono che le cose stanno andando bene in questi 10 anni, sono andate bene. Lei quanto è soddisfatto? Si aspettava di più o di meno? Ma no, guardi, io sono, come le dico, meravigliato che le cose continuino a funzionare, perché purtroppo i controlli e le azioni nel senso voluto non ci sono, sono molto limitati, quindi negli uffici si continua a fumare, ad esempio, questo perché le ASL non fanno quello che dovrebbero, cioè di fare le ispezioni e andare a vedere come fanno i NAS nei locali pubblici, fare altrettanto nei locali, negli uffici, cioè tutte le redazioni dei giornali sono tipicamente piene di fumatori che fumano e se ne fregano. O fumano o svapano anche. O svapano, sì, però insomma fumano. Mm. Questo è un peccato, perché se la classe, non dico dirigente, ma comunque medio-alta, dà l'esempio che si può fumare, poi non possiamo meravigliarci che i ragazzini... Bravo, e arriverei... Professore, arrivo proprio ai ragazzi, no? Oggi, come 10 anni fa, i giovani sono il target più difficile da raggiungere. Certo, ecco, molti hanno iniziato a fumare anche già con la legge Sirchia, quindi se lei oggi fosse ministro della salute, cosa farebbe? Ma guardi, io quello che farei innanzitutto è di mettere come target in questo momento privilegiato proprio i ragazzini delle scuole medie, cioè prima, seconda e terza media, più prima e seconda che terza, sì. Perché è lì che si comincia a fumare per questa emulazione di un modello che viene mantenuto artificialmente dai venditori e che quindi continua a dare immagini nel cinema, nelle televisioni, nella vita reale, loro sperano, gioia, di socializzazione, di piacere, di buon umore legato al fumo. Questo è veramente pessimo, perché sappiamo benissimo che la personalità dei ragazzini a quell'età è in via di formazione, non è formata, e quindi subiscono gli esempi. Non parliamo poi dei genitori che fumano in presenza dei figli, o in macchina insieme ai figli, che sono veramente, dico, deprecabili, perché costruiscono un fumatore con tutti i danni che gli capiteranno addosso nei prossimi 70 anni. Certo. Ecco, allora io punterei interamente su questo. E noi in realtà stiamo facendo un film in questo momento, come c'è una fondazione che, dove io lavoro, che sta facendo proprio, un film proprio dedicato per i ragazzini. Professore, quindi mi diventa anche un po' attore? No, io non sono attore. Dietro le quinte, il produttore delegato. Vede, ecco, io produco. Quindi, l'eminenza grigia. Ecco, quindi ecco, un'eminenza grigia nascosta, perché come attore credo di essere pessimo. Ma non l'hai mai detto. Senta, professore, io so che lei deve andare, ma Deborah aveva una domanda da farle. Sì, certo, perché c'è questa diffusa abitudine da qualche anno a questa parte, che è stata anche un pochino compromessa da tutto un regime fiscale piuttosto complicato a cui questo settore è stato sottoposto, l'utilizzo, professor Sirchia, delle sigarette elettroniche che si possono svapare anche nei luoghi pubblici, negli uffici. Lei che ne pensa? Hanno incrinato in qualche modo la legge antifumo? Sono state un modo per aggirare un ostacolo? Guarda, io francamente non sono favorevole a questo tipo di alternativa, come a nessuna altra, perché come effetto terapeutico non è dimostrato ed è, diventa un rischio, perché appunto incrina l'immagine che il fumo è qualcosa di anormale. Perché il punto essenziale è che i produttori cercano disperatamente di farci credere che il fumo è una parte della vita normale, naturale, e invece è purtroppo un suicidio, quindi come tale non può essere ammesso alla dignità di atto della vita normale. Dobbiamo continuare a dire che è un atto patologico, è un atteggiamento patologico che è veramente un suicidio. Ecco, allora far finta che questa cosa rientri dalla finestra sotto forma di altra forma di svap o di quello che è, secondo me non è bello. Io francamente non lo amo. Amo ancora meno la produzione che si è avviata in Italia, in Emilia, di un prodotto addirittura nuovo che usa il tabacco e lo scalda, non so bene cos'è che succede. Comunque che... Ma ne parleremo proprio anche col dottor Boffi, a cui... ecco, lui lo sa di sicuro molto meglio di me. E quindi, il dottor Boffi, e quindi queste cose qua sono pericolose, perché tentano di far passare il fumo o i suoi succedanei come un atto della vita normale. Quindi è normale fumare. Invece, è normale, certo. Non è così. Fumare è un atto, secondo me, suicidale, no? Nel senso che uno che si fa del male pagando è una cosa incredibile. Cioè, è una vera e propria dipendenza. Professor Sirchia, quando è che venga a trovarci presto, però la vogliamo in studio. Adesso, perché se il professor Sirchia perde il treno, poi dice, mannaggia, quelle di Cuore Denari. Mi scuso molto, ma purtroppo devo davvero andare. Grazie, professore. Okay, grazie a buon voi. Viaggio. Carissimo a tutti. Grazie. Buon lavoro. Dottor Boffi, e lei che cosa vede dal suo osservatorio privilegiato, il centro antifumo che dirige all'Istituto Nazionale dei Tumori? Che cosa ha notato? Beh, privilegiato relativamente, perché il 30% delle persone ricoverate all'Istituto dei Tumori sono lì per colpa del fumo. Io in particolare sono pneumologo, quindi sia vedo i danni oncologici, ma anche quelli infiammatori, l'asma, la bronchite cronica ostruttiva, l'enfisema che il fumo è capace di provocare. E quando dico fumo intendo non solo il fumo attivo, ma anche il fumo passivo. Quando abbiamo aperto il centro antifumo, ormai più di 15 anni fa, sembra un'eternità, quindi in epoca pre-Sirchia c'era solo la 626, il primo anno sono venuti un quarto delle persone che sono venute al centro antifumo erano fumatori passivi, perché è stato il primo centro antifumo che ha deciso di occuparsi di loro, e devo dire che erano nettamente prevalenti le donne. Ho immaginato che fosse anche per un maggior coraggio che avevano le donne di mettersi in gioco e di denunciare la loro esposizione al fumo passivo, come diceva il professor Sirchia, soprattutto nell'ambiente lavorativo, oltre che per dei motivi sembra metabolici, ormonali. È stato dimostrato che le donne asmatiche sono più danneggiate liberate dal fumo passivo rispetto ai maschi. Sta di fatto che abbiamo dato centinaia di lettere di diffida ai loro datori di lavoro, misuravamo la nicotina nel capello, sembra la preistoria, e abbiamo ottenuto decine e decine di radicali anti-smoking policy all'interno di aziende, anche all'interno di una famosa multinazionale del tabacco che fa anche altre cose, fa le sottilette, e ha fatto, proprio perché è stata presa tra virgolette in castagna, ha fatto una circolare interna, ha detto basta, non fumiamo più all'interno perché l'Istituto dei Tumori lo sa. Quindi l'Istituto dei Tumori viene a controllare. Esatto, quindi sono molto orgoglioso di aver fatto questa cosa, come sui treni, gli Eurostar, no? All'inizio ci chiamavano tutti i talebani, e invece poi è arrivato Sirchia e ci ha molto semplificato le cose. È vero, non c'è ancora forse una sufficiente certezza della sanzione, però la maggior parte dei fumatori lo rispetta, questo divieto. Io intanto vorrei chiedere l'aiuto del dottor Boffi, di Deborah, ma soprattutto della grande famigliona di Cuore Denari, perché dobbiamo allearci, scriveteci, chiamateci. C'è Patrizio che ci manda un SOS e ci scrive: dite una parolina giusta che faccia scattare la molla per smettere a Claudia, la mia donna in dolce attesa, e magari anche me. Allora direi che in occasione della giornata mondiale senza tabacco, Cuore Denari potrebbe provare ad adottare la compagna di Patrizio e Patrizia e provare a fare un po' di supporto, quindi via con le testimonianze, le paroline, i supporti. Anche il dottor Boffi, naturalmente lo ingaggiamo, può aiutare una mano, soprattutto a tutti coloro che vorranno, no, mettersi in contatto con lui, risponderà anche sulle nostre pagine. Ma sosteniamo in questa giornata Patrizio e la sua compagna in dolce attesa. Certo. 800 24 00 24. Allora, mancano 5 giorni al 31 maggio, dottor Boffi, la giornata mondiale senza tabacco, che saranno 24 ore che suonano come un invito per chi fuma a non fumare più, a smettere, per chi ha smesso a raccontarci come ha fatto, e per chi ci ha provato e ci è ricaduto a rimettersi di nuovo alla prova, perché come lei dice in tante puntate, tanto che noi l'abbiamo soprannominato il dottor antifumo, l'importante è provarci. Però proviamo a riflettere quanto ci costerebbe non accendere una sigaretta. Riusciremo a farlo per 24 ore? Riusciremo a stare liberi dal tabacco? Dottor Boffi, possiamo in fondo usare la giornata senza tabacco per testare la nostra dipendenza e anche la propensione a smettere? Sì, ho già detto altre volte in trasmissione da voi che noi misuriamo anche con un semplice prelievo del sangue, l'Istituto dei Tumori, la predisposizione genetica. Abbiamo verificato che c'è una predisposizione maggiore in certe persone ad altre a far fatica a smettere di fumare e a non ricadere. Questo è vero. Però è vero che si parla di dipendenza, ma è anche un libero arbitrio fumare, e quindi è molto importante la motivazione e l'intelligenza, la furbizia di decidere di farsi aiutare da qualcuno, cominciando naturalmente dal proprio medico di famiglia o dai centri antifumo. Però alla base ci deve essere prima di tutto la consapevolezza di quello che noi siamo. Siamo fortemente dipendenti? Lo siamo così? Siamo solo a livello psicologico, come la maggior parte dei ragazzi che fumano per omologazione, per accettazione, come diceva il professor Sirchia? Allora c'è un test semplice che si chiama test di Fagerstrom, che viene utilizzato in tutti i centri antifumo, ma anche molti medici di famiglia lo misurano, con semplici 6 domande, con un punteggio, le 2 domande principali che valgono 3 punti, per cui se rispondi da forte fumatore già questo è sufficiente, sono: quante sigarette fumi, se meno di 10, se da 10 a 20, se da 20 a 30 o anche da più di 30 sigarette al giorno, e quando fumi la prima sigaretta al mattino, perché il forte fumatore fuma di solito entro 5 minuti da quando si risveglia, al massimo subito dopo il caffè, e questo è un indice di una piccola sindrome di astinenza che vivi tutte le mattine. E questo quindi viene anche discusso, dov'è la felicità di una cosa che ti fa svegliare tutte le mattine già con un piccolo grande malessere, che è la voglia di fumare. Il forte fumatore, quindi quello che fuma subito la prima sigaretta o appena può, insomma, magari in casa è proibito per la moglie o il marito, appena può fuma, ecco, quello è sicuramente una persona che avrebbe bisogno di farsi aiutare dal proprio medico di famiglia o da un medico specialista. Quindi rispondete 800 24 00 24, mi raccomando, abbiamo pensato di adottare la compagna di Patrizia Patrizio e Patrizio, perché la compagna di Patrizio è in dolce attesa e bisognerebbe proprio in quell'occasione smettere di fumare. Bisogna sempre smettere, diciamo, ma soprattutto se si aspetta un bambino. I farmaci antifumo sono più ovviamente difficili da utilizzare in gravidanza. Anche la stessa terapia nicotinica, i cerotti, le gomme, gli inalatori, si cerca di usarli il meno possibile per il minor tempo possibile in gravidanza. La maggior parte delle donne fumatrici smette in gravidanza, però non tutte, e questo già è grave, ma soprattutto ancora più grave che la maggior parte di loro dopo il parto o al massimo dopo l'allattamento ricomincia a fumare. E quindi secondo me lì bisognerebbe lavorare molto di più con i ginecologi, con i pediatri, per aiutare queste persone a cogliere l'occasione. Ma noi lavoreremo, ci lavoreremo, intanto rispondete, ma diteci anche se svapate. Il test che lei ha fatto per i fumatori, per gli svapatori non va bene, ma cercheremo di fare anche, diciamo, qualcosa per gli svapatori. Non esiste un test del genere sulla sigaretta elettronica, però sì, può essere adattabile, perché no? I mercati fumano, sì, o hanno smesso? Posso dire una cosa su Patrizio e la sua compagna? Ma avete, forse è il loro primo bambino, non conoscono ancora l'odore che ha un bebè appena nato. Se fumano, secondo me rischiano di perdersi questa emozione grandissima, o comunque di alterarla profondamente. Vale la pena solamente per questo motivo di fare il sacrificio di abbandonare la sigaretta. E con questa mia lezione di vita bella, mi è piaciuto da zia, bella. Sì, perché sì, hanno questo odore meraviglioso. E quindi alla compagna di Patrizio, diciamo, adesso lei non è incinta, esatto, vada a dare un'annusatina a quei colli profumati, a quelle pieghette. Io però devo fare il medico, scusate, rompiscatole, quell'odore è dannosissimo per il bambino, per il feto e per il neonato, certo. Perché contiene non solo nicotina ma anche polveri sottili, sostanze perché cancerogene. Perché il fumatore inquina. Assolutamente, sì, sì. Soprattutto ci sono delle categorie sensibili come le donne incinte, come l'embrione e i bambini appena nati, che devono assolutamente essere protetti dal fumo passivo. Allora andiamo intanto a sentire i mercati, poi torneremo sull'odore dei neonati, sulla puzza dei fumatori e su tanto altro ancora, tra poco. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Cuore e denari. E te pareva una donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come io stavo andando tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è sta il semaforo, tu guidi la cazzo di cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta facottara. Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cacatore di macchina? Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone? Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccola e ma dai. Fallo finire che se no ti addobbo. Ma fammi ammazzata, a te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul volo. E allora, questo era un banale tamponamento, ma insomma di incidenti d'auto ce ne sono anche di più seri, e comunque un tema del quale noi non vorremmo mai parlare, ma questo tamponamento dei Sica Rinaldi lo ascolteremo all'infinito. Noi torniamo ad approfittare di questo sketch e lo utilizziamo sempre per parlare di auto e di assicurazioni della nostra auto. Oggi lo faremo nella seconda parte di Cuore e Denari, perché ci sono alcune importanti novità in arrivo proprio nel mondo RC Auto. Nel corso dell'estate 2015 inizieranno a dematerializzarsi, anzi tra l'estate e l'autunno, due documenti molto importanti: l'attestato di rischio, quel documento che arriva a casa poco prima della scadenza dell'assicurazione, che profila l'automobilista in base alla sua condotta, e poi il contrassegno che siamo abituati ad apporre sul nostro parabrezza. Sapete intanto quando scade l'assicurazione della vostra auto? Come gestite di solito questi documenti? Avete già parlato con la vostra assicurazione di questa dematerializzazione? Mano alla cornetta, iniziate a chiamarci per intervenire tra poco. 800 024 0024, il numero verde a vostra disposizione. La sigaretta elettronica mi ha trasformato. Ne parleremo tra poco anche di sigarette elettroniche insieme al dottor Roberto Boffi, il nostro dottor antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Ma nel frattempo, per chi non ha ancora deciso di smettere, per chi ci sta pensando e aspetta il momento buono, per chi in questo momento non si sente pronto, insomma per tutti i fumatori, e sono tanti, ci stanno scrivendo, ci stanno chiamando, e tutte le persone che continuano ad accendersi la sigaretta, è possibile fare una prevenzione secondaria, quindi controlli in grado di monitorare la situazione con cadenza regolare per intercettare nel caso la malattia, stiamo parlando di tumore al polmone, quindi nelle fasi iniziali. Lo chiediamo al dottor Marco Aloisio, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno a tutti voi e grazie a voi. Responsabile di chirurgia toracica e nuovo presidente della sezione milanese della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro Tumori. Dottor Aloisio, che si fa per una persona che fuma e non riesce a smettere? Dunque, la domanda che molti fumatori mi fanno è qual è il modo per cui possono eventualmente controllare o diagnosticare precocemente un tumore del polmone. A questa domanda la prima cosa a cui io rispondo è una controdomanda: ma perché loro non smettono di fumare? Perché poi alla fine la prevenzione primaria, smettere di fumare, è la cosa più importante. Detto questo, per venire a un esempio clinico pratico, indubbiamente ci sono delle evidenze che prima si trovano i noduli polmonari, i tumori del polmone, e meglio si possono curare, chiaramente con metodiche meno invasive e soprattutto con maggiore risparmio di parenchima polmonare. Per cui il problema è che i tumori al primo stadio, cioè quelli che ancora oggi sono i più guaribili, sono solo il 55-60%, per cui anzi alla diagnosi sono il 15% e la sopravvivenza di questi tumori è 55-60%. Per cui fare un attack spirale, perché credo che in genere questa è la domanda che mi pongono i pazienti, è una cosa che se io non consiglio a livello di programmi di screening nazionali, al singolo utente non posso non consigliargli. L'attacco è un esame che ha una sensibilità rispetto a una lastra del torace che è 4 volte superiore per i noduli polmonari non calcifici. C'è uno studio di screening che ha suscitato scalpore del National Cancer Institute degli Stati Uniti di 2 anni fa, in cui nella popolazione screenata si era assistito a una riduzione della mortalità del 20%. Questo dato deve essere validato, e lo sarà a breve, da altri studi molto potenti dal punto di vista statistico, che sono degli studi europei. Mi riferisco soprattutto a uno studio Nelson, che è uno studio danese e olandese, e a breve avremo le risposte. Per cui la risposta che io do ai fumatori, prima di non fumare, di fare proprio di tutto per non fumare o non fumare in presenza di altri che non fumano. Se proprio non ci riescono, a livello individuale un attack torace a basso dosaggio non posso biasimarla, ecco, certo. Questo è il discorso. Allora, dottor Aloisio, noi ci sentiamo quando per commentare. Grazie. I risultati che lei ci ha annunciato, quindi la invitiamo a Cuore Denaro Denari al più presto. Grazie, dottore. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Dottor Boffi, il problema è che spesso il fumatore si sente solo, lo diceva lei a microfoni spenti, c'è stata una legge, poi c'è stata questa seconda chance della sigaretta elettronica. Adesso c'è questa con il tabacco, che no, sembra una via di mezzo tra quella tradizionale e quella elettronica, una via di mezzo, per quale target, insomma? Ma per me sono occasioni perse, diciamo, per quanto riguarda la cessazione, l'aiuto ai fumatori a smettere di fumare, sia la legge antifumo di 10 anni fa che il fenomeno di moda delle sigarette elettroniche degli ultimi anni. Lo dico da medico che cerca di aiutare i fumatori a smettere di fumare. La legge antifumo non ha fatto smettere, devo dire, molte persone. Ha tutelato molto le persone dal fumo passivo, con dei dati importanti, soprattutto a livello cardiovascolare, già dopo pochi mesi dall'introduzione della legge antifumo. Però per aiutare persone a smettere di fumare, forse secondo me si poteva fare di più. Ci sono paesi come l'Inghilterra dove gli ex fumatori sono il doppio dei fumatori, invece in Italia è esattamente il contrario, siamo più di 11 milioni di fumatori e 6 milioni e rotti di ex fumatori, quindi significa che gli italiani non sono stati ancora aiutati abbastanza. Non so, i farmaci antifumo gratis almeno per certe categorie. già sensibili, più tipo i pazienti malati di cuore, di polmone, di tumore, cuore, oppure un accesso più privilegiato ai centri antifumo, insomma. Se, noi oggi avremmo voluto dare una mano, ma sono tanti gli ascoltatori che hanno chiamato e che invitiamo a scriverci o andare sul nostro profilo, dottor Boffi, certo, che deve dare la sua disponibilità, poca informazione, poco aiuto, perché i minuti sono, il nostro spazio è quasi terminato per la salute, poi andiamo a parlare di assicurazioni, no? Beh, parliamo di auto all'interno della quale si fuma, ne abbiamo anche parlato. Vogliamo però ricordare un appuntamento, sì, che lei, abbiamo parlato di ragazzi e sì, io del dottor Boffi sono innamorata perché anni, vedi che l'ha dichiarato un po', anche certo, non so se di lui stesso, anche un po' di me, perché con coraggio, determinazione, continua a lavorare sui giovani e ogni anno lavoro in un ospedale che me lo lascia fare, non esatto, poco. Va bene, però si potrebbe far finta di nulla perché sono cose faticose queste di portare avanti. Ogni anno lavora sui giovani e dedica proprio la giornata mondiale, sì, senza tabacco a questi incontri, anche il 29 di maggio. Sì, lo facciamo il venerdì perché il 31 maggio è domenica. Quello per che i licei milanesi. Sì, quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi è il gioco sporco che c'è sotto gli interessi del fumo, in questo caso anche al fumo freddo, cioè quello delle nuove sigarette elettroniche al tabacco. Faremo un esperimento in diretta quest'anno e dimostreremo la capacità che hanno queste nuove sigarette elettroniche prodotte dalla più grande multinazionale del tabacco, che come diceva il professor Sirchi ha fatto un grosso stabilimento anche in Italia, di inquinare, quindi di emettere sostanze irritanti e tossiche. Quindi cercheremo anche stavolta di crearci qualche nuovo nemico importante, illustre, ma lo faremo per cercare di far capire ai ragazzi da che parte sta la giustizia, la vera indipendenza, cioè il contrario della dipendenza che il fumo è capace di provocare. Tra l'altro ci ha scritto anche tra gli sms una ragazza che ci racconta che va all'università, quindi parlando proprio del profilo giovanile al quale lei si rivolgeva, che dice: io insomma prima delle lezioni non riesco proprio ad evitare di fumarmi qualche sigaretta. No, questo intanto ci fa piacere che una, come dire, collettività così giovane ci ascolti, no Nicoletta? Volentieri, questo per noi piace, è questo, esatto, ci piace un molto aspetto. Adesso abbiamo il traffico, poi peschiamo una telefonata, facciamo rispondere al dottor Boffi se vuoi, e poi parliamo di auto, del contrassegno assicurativo, dell'attestato di rischio. Evitare di fumare in auto è tassativo. Ecco, brava, a okay, tra poco. Grazie. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Cuore e denari. Allora chiudiamo lo spazio dedicato a questo nostro sforzo, no? Per smettere di fumare o se l'abbiamo fatto e ci siamo ricaduti a ritentarci, con Claudio da Lucca. Buongiorno Claudio. Buongiorno Nicoletta, come va? Io bene, lei? Sì, io dopo 4 anni e mezzo che non fumo più mi sento un'altra persona. Ho preso un po' di pancetta. Ma la pancetta va giù, avete le mura, Lucca, vada a risponda fare delle corsette. Risponda al questionario corsette di Expo 2015, Cuore Denari. A Lucca la pancetta va giù in un attimo. Bravo, bravo Claudio, dottor Boffi. Claudio ha detto, bravo, come dicono tanti che hanno smesso e che hanno avuto il coraggio di fare, la mia vita è cambiata. Ma lei deve aiutare tante persone che ci hanno scritto e chiamato a, no, incamminarsi sulla, certo, strada di Claudio. Sì, è un percorso smettere di fumare che dura almeno un anno, diciamo un anno è un periodo necessario e sufficiente per definire una persona ex fumatore, quindi Claudio è sicuramente alla grande un ex fumatore, però lo rimani per sempre, quindi questo va detto a Claudio e a tutte le persone che hanno smesso di fumare da molto tempo, cioè di non giocare con la sigaretta, di non provare il gusto di riaccenderla, perché questo è pericoloso, purtroppo detto da un medico che a volte vede le non persone giocare ricadute con il fuoco, insomma, ecco, in questo caso col fumo. Sa fumare, ecco, però ricaduta è bravissimo, è dietro l'angolo. È molto positivo che chiami per dare questa testimonianza di felicità. E quindi e noi gli diamo anche due libri, un kit dell'inviato, ecco, a Claudio, perché esatto, smette di fumare è contagioso, per cui può benissimo aiutare altre persone a farlo. Gli mandiamo il libro del metabolismo di Speciani, così almeno magari se vuole battere la pancetta, il kit dell'inviato e magari ci metto anche felice un libro di soldi dentro e siamo a posto. Grazie a Claudio, continuate a scriverci, il dottor Boffi darà una risposta, volentieri, un'indicazione. Mi grazie raccomando, ricordate la moglie di Patrizio da Pistoia, incinta, deve smettere, sosteniamola. Grazie dottor Boffi. Grazie, grazie mille. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina. nella macchina. Ebbene sì, non abbiamo neanche fatto in tempo a rientrare da Autopromotech alla Fiera di Bologna, che già dobbiamo occuparci di nuovo di auto. Stavolta niente confusione fra revisione e tagliando, come mi hanno segnalato tanti ascoltatori. Ci siamo in realtà un po' divertite su questi termini. Ma l'abbiamo fatta apposta per... Tu l'hai fatta apposta per vedere se io ero pronta. Un po' sprovvedute, sì, ma proprio così tanto no. Parliamo oggi di altre due novità importanti che riguardano alcuni documenti legati all'assicurazione della automobile che tra qualche settimana spariranno letteralmente. Parliamo dell'attestato di rischio e del contrassegno assicurativo destinati a dematerializzarsi. Prendete confidenza con questo termine. Siete pronti a questa rivoluzione? 800 24 00 24 è il numero verde al quale potete raccontarci se la compagnia con la quale siete assicurati vi ha già anticipato questa novità, se ve l'ha spiegata bene, quali domande avete a questo proposito. Noi vi risponderemo oggi col dottor Umberto Guidoni, responsabile servizio auto di ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione. Buongiorno dottor Guidoni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, 3 minuti di tempo per cominciare subito a fare chiarezza su queste novità. Intanto partendo da un dato sul quale ci confrontiamo spesso, lo facevamo in passato anche col dottor Verdone che l'ha preceduta in questo incarico. Dottor Guidoni, c'è un problema in Italia molto forte di frodi e di evasione assicurativa. Almeno 3 milioni e mezzo di auto nel nostro paese circolano senza certificazione, appunto, assicurativa. Per questo si è provveduto per combattere queste piaghe con questi due provvedimenti. Ce li ribadisce per favore? Sì, sostanzialmente noi abbiamo delle stime che ci dicono che circa 3 milioni e mezzo di veicoli circolano senza assicurazione e questo rappresenta sicuramente un pericolo per chi poi si imbatte in questi soggetti. Accanto a questo noi abbiamo immaginato ci potesse essere una possibile soluzione attraverso, diciamo così, la messa in archivio della carta per essere sostituita, diciamo così, da archivi informatici che garantiscono evidentemente l'impossibilità di contraffare il tagliando assicurativo da una parte o di falsificare le informazioni che sono contenute nell'attestato di rischio. Questi due fattori chiaramente incidevano in maniera profonda da una parte sulle informazioni che la compagnia riceveva e che sulla base delle quali doveva poi stabilire la tariffa e il premio assicurativo per la persona, e mi riferisco in questo caso all'attestato di rischio, dall'altra parte determinava proprio una evasione assicurativa completa, perché praticamente bastava una fotocopia a colori del contrassegno messo sul parabrezza, certo, del veicolo per poter, come dire, ingannare le forze dell'ordine e quindi circolare praticamente senza una copertura. E questo, certo, chiaramente comporta dei gravi rischi per chi poi ha un incidente con queste persone, perché evidentemente non c'è una copertura assicurativa e quindi non c'è la garanzia del risarcimento del danno subito. Chiarissimo. Dottor Guidoni, noi adesso fra un attimo ci prenderemo la pausa per sentire il giornale radio, poi torneremo su questi argomenti subito dopo per capire se comunque una persona volesse in ogni caso la certificazione cartacea di questi documenti, come può fare per averla. Detto questo, ci sintetizza le motivazioni, oltre a queste che ci ha detto, per cui è importante che tutti gli italiani conoscano questa novità, queste due novità? È fondamentale perché ad oggi gli italiani sono abituati a ricevere 30 giorni prima della scadenza del proprio contratto assicurativo a casa un documento cartaceo che è l'attestato di rischio e che in qualche modo sintetizza la storia assicurativa degli assicurati, e dall'altra parte sono oltremodo abituati a mettere sul parabrezza del veicolo il contrassegno. Allora, per quanto riguarda l'attestato di rischio, dal 1 luglio non arriverà più a casa. Per quanto riguarda il contrassegno, dal 18 di ottobre noi non avremo più l'obbligo di esporlo sul parabrezza, quindi è importante che gli italiani lo sappiano, certo, perché questo significherà che nel momento in cui non vedranno arrivare l'attestato o non vedranno arrivare il contrassegno non si domanderanno perché. Esatto, non spaventatevi, ma noi vi spiegheremo comunque come fare anche a capire se una persona che non deve più esibire questi documenti, non averli più materialmente, sia regolarmente assicurata. Lo faremo subito dopo il giornale radio. Cuore e denari. Sento il mare dentro una cosa. è un battito di ciglia. Eccoci ritrovati a Cuore Denari. Stiamo facendo il conto alla rovescia per l'estate, ma oggi in particolare stiamo facendo il conto alla rovescia per due novità che ci riguardano come automobilisti e automobiliste e che arrivano proprio a partire da questa estate 2015. La prima, la seconda arriva un po' più là in autunno. Parliamo della scomparsa della dematerializzazione dell'attestato di rischio cartaceo e del contrassegno assicurativo. Il primo non ci arriverà più a casa 30 giorni prima la scadenza della nostra assicurazione, del nostro premio, e il contrassegno assicurativo invece non sarà più obbligatorio esibirlo a partire dal 18 ottobre. Tutte queste novità ce le sta spiegando stamattina il dottor Umberto Guidoni, responsabile servizio auto di ANIA, l'associazione delle imprese di assicurazione italiane, e vedo già che siete molto vivaci al numero verde oggi 800 24 00 24, per chiarire meglio la portata di queste novità, perché è bene che noi le sappiamo. Insomma, sappiate che se non ci arriva prossimamente l'attestato di rischio, dottor Guidoni, non è perché la compagnia si è dimenticata di mandarcelo, ma perché ha ottemperato ad una direttiva che è stata appunto data loro dall'associazione di settore. Non esiste una disciplina legislativa che regolamenta queste novità, o sì? Ma c'è un regolamento dell'autorità di vigilanza, che è appunto l'IVASS, che ha stabilito e ha obbligato le compagnie di assicurazione ad attenersi a questa disciplina, sulla base della quale le compagnie di assicurazione hanno già provveduto per quanto riguarda l'alimentazione della banca dati degli attestati di rischio da una parte, e per quanto riguarda appunto la copertura assicurativa dall'altra, perché diciamo che poi gli archivi vengono detenuti da strutture pubbliche diverse. Certo, adesso spiegheremo anche, visto che a quanto pare questa è una delle tante curiosità dei nostri ascoltatori, cosa succederà se dovesse fermarci una pattuglia della polizia stradale o un vigile urbano. Qua a Milano in questo momento sono particolarmente incaponiti, multano ovunque, perché evidentemente i comuni devono far cassa come sempre, ma se ci trovano ovviamente sprovvisti di questi documenti, come sarà logico che capiterà a molti automobilisti prossimamente, come faranno per controllare se l'auto regolarmente assicurata? Perché te lo sei già chiesto tu? Il vigile non perdona. E poi soprattutto non si dematerializza. Te la sei scritta? No, leggevo qua dematerializzarsi, che per me è uno scioglilingua. No, lui si materializza sempre, è invisibile, perché in realtà ti appiccica lì la multa è ben visibile, e anche se il vigile è dematerializzato. 800 24 00 24, con questo sarcasmo oggi andiamo a sentire subito cosa chiedono i nostri ascoltatori. Dottor Guidoni, è pronto a rispondere alle loro domande? Prontissimo. Eccoci qua. Comincerei con Carlo Alberto. Carlo Alberto, con questo nome. Carlo Alberto, buongiorno. Benvenuto da Verona. Sì, buongiorno. Sono Carlo Alberto. Sì. Ho 53 anni, da Verona, sì. Sì, ci dica. Ecco, la mia domanda è questa. Io ho sospeso l'assicurazione e ero in classe 7. Ora vivo con la madre e avrei diritto, per la legge Bersani, a ritornare in classe prima come lei. Mm-hmm. Ecco, vorrei sapere cosa succede in questo caso, perché... Beh, allora, Carlo Alberto, intanto l'auto deve regolarmente assicurarla, esattamente come lei deve assicurarsi come appunto conducente. Dottor Guidoni, naturalmente sottoscriverà un contratto, solo che non riceverà in cambio i documenti fisici. Allora, questo sicuramente sì. Credo che l'ascoltatore volesse sapere quale sarà la classe certo, che gli assegneranno. Allora, la legge Bersani si applica in caso di prima sottoscrizione di un contratto assicurativo. In questo caso c'è... Quindi una... se lui fosse stato un diciottenne alla prima assicurazione avrebbe... Ma in generale sì, al di là dell'età. In caso di sospensione, in questo caso lui riceverà la classe di merito di origine, insomma di provenienza, quella, se non avrà fatto, non avendo fatto sinistri perché c'è stato un periodo di sospensione, manterrà la classe di merito di provenienza. Chiaro. Allora, dottor Guidoni, abbiamo detto della dematerializzazione dell'attestato di rischio e poi successivamente di quella del contrassegno assicurativo. Perché le novità vengono in due step differenti, così distanziati temporalmente? Perché non parte tutto subito? Ma perché si deve dare anche la possibilità alle compagnie, da una parte, di poter alimentare correttamente e di cambiare i processi aziendali che fino ad oggi caratterizzavano l'operato delle imprese di assicurazione, Chiaramente la trasformazione dei processi aziendali, soprattutto la possibilità di archiviare le informazioni che riguardano l'attestato di rischio, richiede un impegno non banale da parte delle compagnie, perché poi gli attestati di rischio hanno diverse classificazioni, per cui vanno codificati in un certo modo nel momento in cui vengono assunti all'interno della banca dati. Lo stesso discorso vale per l'alimentazione, diciamo così, della banca dati, che riguarda invece la copertura, le coperture assicurative. E quindi questo, richiedendo un impegno particolarmente gravoso da parte delle imprese, ha visto, diciamo, delle scadenze di carattere diverso. Dal punto di vista degli assicurati, anche per dare loro la possibilità di abituarsi ad una nuova modalità di rapporto con l'assicurazione, che probabilmente da parte di tutti noi è stata sempre immaginata con, diciamo così, identificabile con il contrassegno sul parabrezza, e quindi dargli la possibilità appunto di abituarsi a queste nuove modalità più avanzate dal punto di vista tecnologico. E quindi, insomma, un modo per aiutare gli automobilisti a prendere confidenza con queste novità, e anche le compagnie di assicurazione devono sistemare tutte le loro banche dati con questi flussi informativi. Non è che ci faranno pagare tutta questa, che si chiama in gergo finanziario, compliance, no? Risparmieranno sulla carta, dottor Guidoni, ma non è che ci troveremo qualche sorpresina sul premio assicurativo. Vigilerete su questo? Assolutamente no, non è previsto nessun aggravio sugli assicurati. Chiarissimo. Senta, le chiedo però, spariranno obbligatoriamente, nel senso che le compagnie di assicurazione non avranno più l'obbligo di inviarci materialmente questi due documenti, ma se qualcuno... A me dispiace un po'. Sì, eri affezionata? No. Ma vai a piedi tu, tra l'altro. Va bene, però mi arrivava, ero contenta. Eri contenta. Mi sembrava di aver fatto tutto per bene. Tu ti guardavi sempre l'attestato di rischio quando ti arrivava. Non ci hai creduto, ma vero? Santo cielo. Però, dottor Guidoni, per chi preferirà mantenerli in forma cartacea, se io voglio continuare a ricevere l'attestato di rischio perché mi diverto a leggere tutte quelle che sono le mie caratteristiche di guidatrice e provetta, o se voglio continuare ad esibire il contrassegno dell'assicurazione sul parabrezza perché si abbina bene al colore della vettura, insomma, posso chiedere alla mia compagnia di farmene comunque avere una copia cartacea? Andrei un attimo per ordine, anche per consentire, per far capire bene il fatto che comunque gli assicurati possono in qualsiasi momento sapere la loro posizione. Allora, l'istituto di vigilanza ha fatto obbligo alle compagnie, innanzitutto, per 12 mesi a far data dal 1 luglio, di mandare una comunicazione a tutti gli assicurati nei quali si spiegherà che, per quanto concerne l'attestato di rischio, non arriverà più in forma cartacea e che sarà possibile poter avere tutte le informazioni necessarie sulla propria, mi passi il termine, pagella, sul proprio comportamento alla guida, in un'area specifica riservata sul sito della compagnia di appartenenza, dove, avendo ricevuto le credenziali da parte della compagnia, sarà possibile andare a verificare in ogni momento la propria situazione. O altrimenti, se l'assicurato ne farà richiesta e la compagnia attiva queste modalità, sarà possibile ricevere le informazioni sullo smartphone, su WhatsApp, addirittura anche sui social network. Quindi, diciamo che da questo punto di vista la compagnia in ogni momento deve attivare ogni canale possibile per raggiungere il suo assicurato. Esattamente. D'altra parte, se l'assicurato non ha dimestichezza con questi mezzi, potrà fare richiesta, qualora sia in contatto con un intermediario, con un agente che gli ha fatto sottoscrivere il contratto di assicurazione, potrà richiedere l'attestato cartaceo. Fatto salvo però il fatto che quell'attestato non ha alcun valore, cioè se lui prende questo attestato cartaceo perché vuole andare da un'altra compagnia a sottoscrivere un contratto, l'altra compagnia non farà riferimento a quel documento, comunicherà direttamente. Ecco, quindi si creerà una sorta di portabilità tra una compagnia e l'altra, un po' come succede per lo spostamento di un conto corrente, dottor Guidoni, se si vuole cambiare compagnia. Sì, praticamente chiamiamola portabilità, ma nel senso che le compagnie, proprio per evitare che ci possano essere delle informazioni fasulle, diciamo così, chiaro, attraverso una falsificazione dell'attestato di rischio, la compagnia potrà accedere a questa banca dati che invece fornirà le informazioni quindi corrette. Quindi è ad esclusivo uso personale, così, giusto per avere una visualizzazione, una fotografia della nostra condizione, ma non ci servirà se volessimo andare a chiedere un preventivo ad un'altra compagnia, portarci dietro l'attestato di rischio. Allora, il tema adesso cruciale qual è? Siamo sicuri che una, un'auto che, o un conducente che non deve più avere materialmente l'attestato di rischio e quindi l'auto che non deve più esibire sul parabrezza il contrassegno assicurativo, se abbiamo il sospetto che non siano regolarmente assicurati, che cosa succede? Allora, intanto, se ci ferma una pattuglia della polizia, dottor Guidoni, che cosa fa? Prende la targa e cosa fa? Adesso, allora, in questo punto ci riferiamo al discorso della mancanza del contrassegno. Fino ad oggi lei sa che anche la mancata esibizione del contrassegno sul parabrezza determinava una sanzione nei confronti dell'automobilista che non faceva questo. Ora, non essendoci più il contrassegno, il sistema di identificazione della copertura assicurativa avviene attraverso la targa. In sostanza la pattuglia ferma, fa un'interrogazione, diciamo così, anche attraverso lo smartphone alla banca dati detenuta presso la motorizzazione e alimentata dall'ANIA e verifica la presenza o meno del contratto assicurativo. Se il contratto assicurativo non c'è, viene applicata la sanzione che tutt'oggi è prevista, che è una sanzione pecuniaria più il fermo amministrativo del veicolo. Se l'assicurazione c'è, il problema non si pone come non si pone ecco, in passato. Però lei c'è un elemento. Ecco, sa che vogliamo arrivare allo stesso punto, perché potrebbe anche essere che in realtà questa informazione non ci sia per colpa della compagnia. Magari l'autista, il conducente, l'automobilista è totalmente certo che la sua posizione sia corretta, che ha pagato tutto e dice: ma è la compagnia che non sta trasferendo correttamente i dati. Come può difendersi? So che può farlo con una sorta di autocertificazione. Sì, potrà posto farlo. Che io escludo questo perché le compagnie stanno alimentando in maniera puntuale e precisa la banca dati, quindi c'è un meccanismo. Vabbè, che praticamente un errore può capitare. Sa che com'è la madre della sfortuna, è sempre lì all'agguato. Ci possono essere degli elementi, ci può essere un'autocertificazione da parte dell'assicurato che fa fede e a quel punto l'autocertificazione porterà poi ad una verifica da parte dell'assicuratore. E se l'assicuratore verificherà che l'autocertificazione è veritiera, nulla questio, si potrà procedere in maniera automatica per quanto riguarda la copertura assicurativa. Qualora non è veritiera, l'assicurazione avviene sulla base della classe di merito dichiarata dall'assicurato. Se l'assicuratore ne verifica un'altra, ci sarà evidentemente la richiesta di un'integrazione del premio assicurativo. Allora, insomma, tutto dovrebbe filare liscio, ma... Però un elemento che mi premeva molto sottolineare, che credo sia importante da evidenziare e che invece si riferisce al discorso del contrassegno, è il fatto che oggi non soltanto la pattuglia può attestare il fatto che uno sia assicurato o meno, ma con il nuovo sistema di rilevazione della targa anche le telecamere, per esempio della ZTL o i tutor in autostrada, facendo la verifica sulla targa, hanno la possibilità di andare a interrogare questa banca dati e attestare se l'auto è assicurata o meno. Dei controlli incrociati, esatto. Anche se non ci ferma la pattuglia. Esatto. Ma io volevo fare una domanda. Sì, no, intanto stavo pensando a tutti gli ascoltatori che tu sai che si innervosiscono sempre quando vengono controllati sulla privacy, eccetera. Vabbè, però è così. Esatto, allora andate in giro senza assicurazione, che è meglio. Allora, Tina ci chiede, dottor Guidoni, ma per chi viaggia in auto all'estero cosa cambia? Ma non cambia assolutamente nulla. Se l'auto italiana si presenta in giro per le strade di Parigi, di Berlino senza tagliando assicurativo. Assolutamente nulla, nel contratto di assicurazione comunque viene mantenuta la carta verde e quella è l'elemento fondamentale per poter riconoscere la copertura assicurativa anche all'estero. Una batteria di domande prima di salutarla da parte dei nostri ascoltatori all'800240024. Velocemente, Pierpaolo da Pavia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire questo: se io faccio un incidente con un mezzo sangue nordico e sospetto che lui non sia assicurato, io come faccio a sapere? Che cos'è mezzo sangue nordico? Il mezzo sangue nordico è una persona che evidentemente mi sospettisce. Qua ognuno li definisce un po' come meglio crede, dottor Guidoni. Allora, andiamo al concreto di fare un incidente con una persona che, in virtù del fatto che non avrà più l'obbligo di avere questi due documenti, no? Ne approfitta magari per fare il furbo e non si assicura neanche. Qua entra in campo tutto il tema dell'indennizzo a carico del fondo vittime della strada, che è tutto un altro pacchetto di notizie da dare. Però che cosa succede in quel caso? Succede esattamente quello che succede oggi. Si può fare il cosiddetto modulo blu, che è quello della constatazione amichevole del, del sinistro, dove viene fatta una dichiarazione da entrambe le parti e poi chiaramente la compagnia di appartenenza indennizza direttamente il proprio assicurato se è stato, come se ha subito l'incidente, e poi farà le verifiche sull'assicurato di controparte. Qualora ci si imbatta invece in una condizione nella quale si accerta che il veicolo che ha causato il sinistro non è assicurato, si ricorre al fondo vittime della strada, che è una, diciamo così, una sorta di, appunto, di fondo che serve a coprire tutti questi casi e che viene finanziato attraverso una quota parte del premio assicurativo. Per tutte le informazioni, peraltro, su questo fondo si può andare sul sito della CONSAP, no? Che è l'organismo del Ministero dell'Economia che lo gestisce, dottor Guidoni, se non mi ricordo male. In ciascuna regione c'è una compagnia che si fa carico dell'istruzione, diciamo così, del sinistro e poi riferisce al fondo vittime gestito dalla CONSAP. Dario da Como, buongiorno, veloce, grazie. Buongiorno, senta, io volevo dire che è capitato 3 volte in 5 anni che c'era la macchina parcheggiata in paese e se non c'è più il tagliandino dell'assicurazione scaduto, allora erano 2 macchine rubate e una che si era dimenticata di sostituirlo. Se la macchina, a questo punto io non sono la polizia locale, come faccio a capire se la macchina è rubata, se l'abbiamo detto poco fa, Dario, ribadiamolo, dottor Guidoni, c'è una banca dati, praticamente la polizia stradale dialoga direttamente con la motorizzazione civile e può fare questo controllo sul campo in tempo reale, ha la possibilità di verificare la copertura assicurativa o altre situazioni che ineriscono il veicolo, così come fa adesso, con in più al punto la possibilità di accertare nell'immediato la presenza di una copertura. Le autorità preposte sono già dotate di tutte le modalità tecniche per fare i controlli incrociati, per cui qua stiamo parlando di una novità che in realtà ha già scaldato i motori per rimanere in argomento da molti mesi. Velocissimamente ce la facciamo con Stefano da Treviso, non lo so, la faccio io la domanda. Le auto aziendali, dottor Guidoni, se io voglio verificare che cosa c'è scritto sul mio attestato di rischio, come lo chiedo? Vado alla compagnia di assicurazione o alla mia azienda? Le auto aziendali, come sa, se chi è titolare di un'auto aziendale perde il proprio attestato di rischio nel periodo in cui c'è la copertura. Allora, l'attestato di rischio ha una validità di 5 anni, per cui se io entro i 5 anni o sottoscrivo un altro contratto di assicurazione o mio personale, con una macchina mia personale, faccio riferimento all'attestato di rischio ultimo che ho ricevuto. Sì. Qualora trascorrono i 5 anni, praticamente alla fine della mia possibilità di usufruire di un'auto aziendale, purtroppo devo ricominciare da capo, perché dedicheremo una puntata solo alle auto aziendali. Dottor Guidoni, speriamo di aver detto tutto quello che era necessario far sapere ai nostri amici automobilisti. Male che vada, entro un mesetto ci ritorniamo su queste novità. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, un saluto. Noi non ci dematerializziamo, ma torniamo domani. Buona giornata.